Europa 24. 14.03, un saluto da Gigi Donelli. Oggi ripartiamo dall'Ucraina, Ucraina di cui si parla, di sponda di fatto anche a Mosca. Tsipras questa mattina dice: le sanzioni contro Mosca ostacolano la fine della crisi e creano un contesto da guerra fredda. Tsipras però non risponde alla domanda diretta e quindi bisogna sollevarle, perché, come dire, sembra quasi che ci si dimentichiamo le ragioni di queste sanzioni che sono state imposte alla Russia, appunto per il ruolo svolto in Ucraina orientale. Allora, proprio su questo invece partiamo noi oggi con un'intervista all'ambasciatore Elisiev. Elisiev è l'ambasciatore dell'Ucraina a Bruxelles, dunque all'Unione Europea. Elisiev che in sostanza invoca una maggiore presenza UE nella regione. Sentiamolo. So now we're facing the situation when Russia continue to ignore implementation of Minsk agreement. La situazione attuale è quella in cui la Russia sta facendo di tutto per impedire il rispetto degli accordi. Il cessate il fuoco in Ucraina orientale è scattato il 15 febbraio scorso, dopo la firma degli accordi assunti tra le parti a Minsk. Purtroppo, da quella data e fino al 4 aprile scorso, almeno 76 soldati ucraini sono stati uccisi in Ucraina orientale e oltre 400 sono stati invece feriti nei combattimenti. Attualmente la tregua viene monitorata dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Purtroppo però le loro reali possibilità di controllare il cessate il fuoco sono molto ridotte. I ribelli filorussi non rispettano gli impegni che sono stati presi. The Russian-backed rebels are not in compliance with the ceasefire. E l'Ucraina chiede dunque un intervento diretto da parte dell'Unione Europea? Yes, indeed. Since the conclusion of Minsk arrangement, sì, fin dalla firma degli accordi di Minsk abbiamo detto che sarebbe essenziale dispiegare sul terreno, nelle zone di Donetsk e Lugansk, una forza di osservazione dell'Unione Europea organizzata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Io credo che questa sarebbe l'unica missione capace di fare rispettare gli accordi raggiunti a Minsk e che potrebbe dunque stabilizzare la situazione nella regione del Donbass. Credo anche che solo la partecipazione diretta dell'Unione Europea potrebbe assicurare le condizioni che servono per ripristinare le condizioni minime di stabilità e sicurezza, che potrebbero così portare in futuro alle elezioni libere e democratiche, che sono indispensabili per il futuro della regione. Una missione europea potrebbe anche aiutare il governo ucraino a ristabilire il controllo dei confini tra Russia e Ucraina, in modo da mettere fine al transito clandestino di armi e combattenti che alimentano la ribellione filorussa. Infine, una missione di questo tipo ci permetterebbe finalmente di assicurare quell'intervento umanitario che la popolazione della regione del Donbass attende ormai da molto, troppo tempo. Ambasciatore, cosa pensa del lavoro che sta portando avanti la rappresentante europea per la politica estera e la sicurezza comune, Federica Mogherini? Per me, lo ammetto, non è del tutto facile rispondere alla sua domanda. Da una parte siamo molto grati per l'impegno assunto dall'Unione Europea per cercare di ridurre e contenere gli effetti della crisi militare nell'est dell'Ucraina. Dall'altra parte pensiamo che l'Unione Europea però potrebbe fare di più. Se l'Unione Europea inviasse una sua missione nel Donbass, sarebbe un contributo esplicito di tutta l'Europa per fermare la guerra non dichiarata che si combatte nel centro dell'Europa. In the center of Europe. E proprio pochi momenti fa un'agenzia batte la notizia: i soldati ucraini che si battono contro l'aggressione russa nell'est separatista filorusso del paese proteggono anche la sicurezza in Europa. Così dice a Kiev il presidente polacco Bronislaw Komorowski in un discorso di fronte al Parlamento ucraino. Bene, con questo è tutto per il nostro appuntamento europeo. Naturalmente ci risentiamo domani alla stessa ora. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.